Eccoci, certo. Subito, la salute. È chiaro, scusate, ho aspettato proprio apposta, non è che... Sì, c'è della salute proprio che... C'è, come si dice, c'è del benessere. Del preterintenzionale, cioè l'ho fatto proprio apposta, non è che... Come al teatro, no? Che ti viene da tossire così. E ti inizia a suonare il telefono, quello non si fa. No. C'è anche un microfono che fa veramente casino, chissà cosa sarà, vabbè, ora non lo fa più meglio. Allora, quindi, rieccoci qua in perfetta forma, la fuga del gatto, dopo lunghe pause, adesso bam, non ci perdiamo più. E ora non ci ferma più nessuno. No, vi speravate di aver chiuso definitivamente con la musica classica, le robe da nerd? No. Lo so, tutto quello che avreste voluto sapere sulla musica classica e non avete mai avuto il coraggio di chiedere, sulle nostre frequenze... E anche tutto quello che speravate di non sapere che volevo... Secondo me, ecco, tutto quello che speravate che non vi venisse detto, esatto. E invece, ovviamente, siete nelle grinfie di due appunto nerd pazzi. Ma il malvoluto non è mai troppo. Lo sapevate, e non dite che non lo sapevate. E se no. Non lo sapevate, sapevatevelo. Ormai è tardi. Per allora, cui... fuga del gatto del... Che giorno? Il 13, no? Che mi sto confondendo. Sì, 13, sì. 13 maggio, nefasti anniversari di cui non vogliamo parlare. No. E fuga del gatto, seconda puntata della soap opera, quindi ciclo dedicato, che ogni tanto, una rubrica, come la potremmo chiamare? Rubrica, dai. Sì, dedicata alle opere. Un appuntamento, non lo so. Sì. E quindi seconda puntata dedicata alla Lucia di Lammermoor. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, abbastanza brevemente, ma neanche troppo. Abbiamo iniziato a introdurre un pochino la storia, quello che era l'inizio perlomeno della trama, l'abstract. Come sì. Specifica lei. Lo dico perché la Pimpa è appena tornata da New York, allora certo. Volevo farla sentire un po' a casa. È chiaro. E poi ora invece andiamo un po' più scendiamo nei meandri di quest'opera gotica e un po' gore anche, soprattutto in questa seconda parte dove scorre il fiume a sangue. No, oggi è così. Oggi è così, scorre fiume a sangue. Bello. Che bello. Beh, però, molto bello, eh? Sai, no? Cioè, nostre amiche sarebbero felici di questa sua inversione, anche tanti psicanalisti e ci potrebbero costruire veramente. No, scorre sangue a fiumi, volevo dire a fiomi, a fiotti. Sì, in quest'opera appunto che si sta rivelando sempre più gran guignol più che si va avanti. Avevamo raccontato un po' qui, sì. Oggi è così, è lo spirito della Lucia di Lammermoor. Avevamo un po' introdotto, se non mi sbaglio, così la genesi di quest'opera di Donizetti, che per riprendere un attimo il filo, come dicevamo, debuttò al Real Teatro del San Carlo di Napoli il 26 settembre 1835. E da allora non ha mai conosciuto, ecco, sfortuna. Vabbè, chiaramente poi è stata un po' a periodi così, un po' più dimenticata, a periodi più in voga, ma in generale è una delle opere di Donizetti che fu forse la più così la più celebre e quella che è rimasta sempre poi famosa negli anni e per non dire a questo punto nei secoli, secolorum. Non a caso, nel senso che è un'opera molto molto bella, vuole dire poco, ma sicuramente complessa e significativa. significativa soprattutto in particolare appunto per questo personaggio femminile per niente banale, per niente scontato, no? Che attraversa, fa proprio un percorso interessante e poi un po' significativo di così della condizione femminile dell'epoca nelle classi, anzi a maggior ragione nelle classi più agiate, in cui appunto la donna veniva fondamentalmente usata dalle famiglie come merce di scambio per ottenere appunto potere, ricchezza, avanzamento, eccetera eccetera. Questa storia è ambientata appunto nel XVI secolo, ma in realtà è più che attuale anche al momento in cui Donizetti la scrive, quindi nella prima metà del 1800. Questa donna che, non volendo accettare il suo destino, ingannata proprio da chi le sta più vicino per motivi proprio prettamente venali, decide appunto più che una decisione, poi un atto istintivo, una ribellione, di ribellarsi appunto, di non sottostare a questo volere, a questo matrimonio che lei non desidera, e di continuare a lottare per quest'amore, che al momento in cui siamo arrivati Quindi alla fine della prima parte del primo atto, lei e Edgardo si stanno salutando, si sono segretamente fidanzati, si stanno salutando segretamente perché il fratello di Lucia prepara per lei in realtà altre nozze dalle quali guadagnerà, e quindi è già stabilito che lei sposerà un altro, ma Lucia appunto si fidanza segretamente col suo innamorato e si salutano perché lui sta partendo, proprio perché le sfortune della famiglia di Edgardo lo portano a dover abbandonare la Scozia momentaneamente, e anche la guerra è nata, insomma c'è tutto un pre, diciamo, storico. E loro si stanno salutando, abbiamo sentito l'aria, appunto, il duetto in cui loro si promettono appunto amore eterno, si salutano. E va ancora tutto bene. E per ora, alla fine per ora sì, sì, per ora sì. Ma il peggio deve venire, ovviamente, chiaro, perché la parte seconda, appunto, l'atto secondo della parte prima, sì, ecco, che si apre appunto su questo momento in cui a lei viene annunciato che si dovrà sposare. Le lettere che Edgardo le manda, no, dall'estero non le vengono fatte arrivare, quindi lei non ha più notizia di lui da molto tempo, e quindi, diciamo così, costretta, addirittura il fratello le dice non solo che lui non le manda più lettere, ma che lui è impegnato con qualcun'altra, è proprio la tradita. Sì, il grande classico, questa cosa del nascondere le lettere, è veramente cattiveria. Lui è cattivissimo, il fratello è proprio tremendo. E al fratello si aggiunge il consigliere spirituale, che è un po' il prete della situazione, che ovviamente, no, la spinge a quest'altro matrimonio per il decoro, per la famiglia, bababà. È chiaro, il corvaccio. Poteva mancare. Il corvaccio, ma proprio, infatti, nella versione che ho visto io, proprio vestito di nero con la croce al collo, proprio tremendo. Maledetti. Sì. Per cui, ecco, siamo messi così. Cioè, gli dicono, Lucia, qui questo non si fa più sentire. Ciaone, ciao un altro. C'era un motivo se ti si era detto di non sposarlo. Esatto. Cioè, non è che... Per cui ora te, insomma, abbi fede un attimo, mettiti l'anima in pace. Perché c'è da fare sto matrimonio, è qui, c'è da svoltarla. Dove invece vedrai come ti va di lusso. Esatto, il tipo tra l'altro, che io chiamo tipo, ma ovviamente ha un nome, sono un attimo persa, però ce l'ha, è un po' l'inutile, cioè almeno nella versione che ho visto io, sto poraccio, gli fanno di veramente mezza, gli fanno cantare che mezza anche l'altro è un po' l'inutile, cioè diciamo che in quest'opera, almeno da quello che mi pare di capire, gli uomini sono un po' secondi, cioè a parte quelli cattivi. Sì, vabbè, ma... il fratello di lei, no vabbè, Edgardo c'ha un bel, quando torna c'ha un bel, c'ha dei bei pezzi, quello che sposa lei, che deve sposare lei, che mi pare si chiami... Oddio, me lo sono perso. Ora ve lo ritrovo il nome. Comunque lui veramente... Raimondo, no. Forse Raimondo. Agostino. Sì, Raimondo. Sto leggendo dei nomi a sì, caso. Lo ferma, cioè lui proprio un po' inutile, cioè, gli fanno di veramente poco. E comunque Porello, anche lui, va lì, insomma, cioè, con la promessa che sposa lei, che andrà tutto bene. A lui gli va malissimo, malissimo. Eh sì. Eh sì, perché appunto nella prima notte di nozze succederà il fattaccio, ma ancora non, no, ancora non ve lo dico, perché prima di tutto questo ci ascoltiamo, ci prendiamo come il primo ascolto, se non mi sbaglio abbiamo in scaletta Chi mi frena in tal momento, che è una delle più note arie della Lucia. Più che aria, è proprio un momento in cui c'è una pluralità di voci, è proprio credo sia un sestetto, sì, addirittura, cioè, sestetto. Entrano tutte le voci, te lo confermo. Lucia, il fratello e gli altri personaggi, ed è molto bello perché appunto è molto molto articolato, e è proprio il momento in cui ancora non, insomma, non si è compiuto il fatto di Lucia, però c'è questo momento proprio di così, dove tutte le voci si uniscono e c'è questo impeto, questo momento di confusione prima appunto al momento in cui lei appunto si arrende, acconsente, e poi vedremo cosa succederà. Per cui è un sestetto, ci sono appunto tutti i personaggioni. Quella è la versione che ci stiamo per ascoltare, è del 30 giugno del 1967. è una un'edizionciona bella importante, dove ci sono un po' tutti i nomi del momento. C'è Lucia interpretata da Renata Scotto, Edgardo da rullo di tamburi, eccolo, il topone, Luciano Pavarotti, Enrico interpretato da Piero Cappuccilli, Raimondo Raimondo e Agostino. Sì, Raimondo è il direttore spirituale, il prete è lui, Raimondo, e Arturo è quello che lei deve sposare. Adesso faccio un recap prima dell'aria, così ecco, ci mettiamo un attimo in sesto. Ok, sì, sì, no, sì. Meno male, perché mi stavo confondendo. Raimondo è appunto il prete, il consigliere spirituale, e Arturo è quello che lei si deve sposare. Allora, Raimondo è interpretato da Agostino Ferrin, Arturo interpretato da Gianfranco Manganotti, Alisa da Anna Di Alisa Stasio, la serva, l'avevamo già incontrata nella prima parte, esatto, quando vanno alla fontana, Normanno da Franco Ricciardi, e il tutto è interpretato dall'Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, diretta da Francesco Molinari. Esatto, Normanno è l'armigero, cioè della casata dei Ravenswood, che ha aiutato il fratello di Luisa a intercettare, che c'è proprio l'intelligence, cioè questi hanno occultato le lettere che Edgardo le mandava, l'hanno nascoste e gli hanno detto a lei che lui la tradisce. Questa è la situazione. Nell'atto, appunto, qui siamo al quadro secondo dell'atto primo, quindi la seconda parte del primo atto. Arturo, il futuro sposo, attende trepidante la promessa sposa all'altare. Lei, sconvolta, come vi dicevo, no? Alla fine convinta, insomma, da tutti questi che gli dicono che Edgardo niente, è infedele, non torna più, e chi lo sa e che combina, firma il contratto nuziale. Ma nel momento in cui firma il contratto nuziale, questo è proprio il momento in cui c'è il sestetto, è sconvolta dall'inattesa irruzione di Edgardo, che arriva. Ta-da! Esatto, il Deus Ex Machina. Sì, esatto, il colpo di scena, Edgardo arriva. Chi mi frena in tal momento, è appunto la sua frase, e che poi diventa poi interpretato da tutti il famoso sestetto che ora andiamo a ascoltare. Gran casino, eh? Quindi il momento di delirio, perché lui la becca, capito? Cioè, lui la becca e si sta per sposare con un altro. E quindi dice, ma come? Ma io? Ma sarà detto... Cioè, lui non lo sa che lei, ma, capito? Questo è proprio così... cattivi proprio, cioè lui non lo sa che lei, che a lei hanno detto male di lui, e lei se lo ritrova lì proprio in quel momento. Cioè, poteva arrivare a 5 minuti prima, no, che mi frena in tal momento. Lui arriva proprio mentre lei si sta per sposare e parte la bambola. Vabbè, sentiamo sta bambola. Quindi, chi mi frena, ho anche detto il sestetto di Lucia. In tal momento mi trovò dell'ira il corso, del suo riso e del suo spavento. Son la prova d'un rimorso, ma qualcosa in anima vita è la sua. Oh! sangue scorrerà. Rispettati in me di Dio la tremenda maestà. Il suo nome è il suo mondo, e volete dire il piano. Grazie, così. Mi sei svegliato. Un momentone, momentone. Meno male che è il ripidino della domenica pomeriggio. Meno male, pensa te. Se non vi ripigliate così, non sappiamo che fare. Passiamo veramente all'adrenalina direttamente in vena, perché se no. Quindi sì, siamo arrivati appunto a questo momento cardine, perché appunto Edgardo si ripresenta e chiede appunto le sue ragioni. Alla vista del contratto nuziale ormai firmato da Lucia, il giovane maledice l'amata e calpesta l'anello che lei gli aveva regalato. Ricordate il famoso anello che gli aveva dato nella primaria? Se sentite, avevo detto st'anello è importante, ricordate? Non è perché c'ho il complesso di Gollum, è perché st'anello è importante. Niente, lei appunto... lui calpesta l'anello che appunto lei gli aveva donato, il suo, e Lucia, impietrita dalla disperazione, gli restituisce il suo anello. Quindi niente, questa storia dell'anello è andata, questo loro fidanzamento sciolto, ormai lei ha firmato il contratto, ha fatto il firmato. È come il contrattino, quando ti chiama così. Il call center e te sbagli e firmi il contratto. No, errore, è così. Poi non torni più indietro. No, infatti da qui non si torna più indietro, perché Enrico, il fratello di Lucia ed Edgardo, andando avanti appunto si prosegue con l'atto secondo, Enrico ed Edgardo si incontrano presso la torre di Wolfrag e decidono di porre fine ad ogni discordia con un duello. No, scusa, come si chiama la torre? La torre di Wolfrag. Cioè, anche adesso di Wolfer, siamo così. No, perché lì per lì mi sembrava avessi detto la torre di Wolverine, non detto, aspetta, magari, no, no. Era mi sono persa un passato. No, vabbè, si spostava un attimo. No, Wolferag, no. E decidono di porre fine ad ogni discordia con il duello che viene fissato per il giorno dopo all'alba. Così si arriva appunto al quadro secondo dell'atto secondo. E siamo al castello e la festa nuziale viene interrotta da Raimondo che, tremante, comunica agli invitati la notizia che Lucia, impazzita dal dolore, ha ucciso Arturo durante la prima notte di nozze. E vai! Quando uno la prende male, non è che adesso possiamo fare... E vai! È così. Lei lo uccide, la famosa aria appunto celeberrima, da questo momento siamo dalle stanze ove Lucia... Perché appunto questo accade fuori scena, noi non lo vediamo, si vede appunto gli ospiti che festeggiano. In realtà è bello perché il matrimonio in sé non si vede mai, è molto bella questa cosa, cioè si vede quando lei firma il contratto e poi si vede la festa a casa di lei, almeno nella versione che ho visto io, c'è questa bellissima scalinata, tutto il coro che festeggia, e a un certo punto arriva la notizia che lei ha ucciso l'appena marito. E dopodiché c'è questa scena bellissima che lei compare, proprio scende da queste scale con un pugnale tra le mani e gli abiti insanguinati. Bellissima questa scena, proprio alla Lady Macbeth di Shakespeare, proprio con lei proprio con le mani insanguinate, con tutto il sangue sulle vesti, scende queste scale e a quel punto lei è in stato di shock, vede delle cose che non ci sono, crede di vedere Edgardo, immagina le sue nozze tanto desiderate con lui e lo invoca questo momento, descrive questo momento come se fosse veramente successo, mentre il coro appunto la compiange, cerca di aiutarla. Entra il fratello che, saputo del misfatto, la fa per ucciderla, perché cioè proprio un certo ammazzo che aveva combinato. È perché chiaramente lui, il tipo che hanno fatto sposare a lei era la fonte del guadagno, cioè è morto lui, è fatto un casino. È un casino. E quindi il fratello tra un po', insomma, prova a ammazzare lei. Lo fermano mostrandogli appunto che comunque lei è più di qua che di là. Lucia appunto si scuote, crede di aver sentito Edgardo ripudiarla, no? Come era stato nell'atto precedente, rivede questa scena in cui la ripudia e gettare a terra l'anello, il famoso anello che si erano scambiati, non regge appunto al dolore e muore nello sconcerto generale. Una tragedia greca. Lucia è proprio così, una tragedia greca che l'aveva presa bene, e quindi tutto è bene perché finisce bene. Lei appunto muore, non prima però di aver eseguito una delle arie più belle forse di tutta la storia dell'opera italiana, e veramente a vederla è impressionante, perché è molto molto difficile, e soprattutto perché lei deve mostrare questo passaggio tra gli stati proprio di allucinazione, ora, non per fare solite citazioni dai film, però cioè, lei è proprio in trance, cioè lei è completamente fuori di sé, ha compiuto così questo omicidio per difendersi, cioè fondamentalmente per non essere così usata da quest'uomo che non voleva sposare, e però è completamente in stato di shock, vede cose E... penso che anche la meraviglia di quest'area sia anche il, e che ciò che la rende anche veramente difficile e non eseguibile da tutti, ovviamente, è il che, di dover riuscire a rendere al contempo sia la parte della vittima sia la parte del carnefice, cioè la complessità di questo personaggio che è in un momento solo, unico, una terribile donna sventurata e anche un'assassina che comunque quando ci vuole e ha usato la violenza, e quindi qualcosa di complesso e terribile, un po' davvero sia la tragedia greca sia la Lady Macbeth, tutti i grandi classici. Sì, leggevo appunto che si tratta probabilmente della più celebre scena di pazzia della storia dell'opera, nota soprattutto nella versione modificata dai soprani dell'epoca, perché la cambiavano un po', cioè, tutte le volte che la facevano quest'opera, abbiamo detto, tant'è, è stata modificata molte volte e in base anche molto alle voci che la dovevano interpretare, quindi veniva spesso modificata non nel testo ma nella, magari nelle tonalità, nella melodia in cui si arrivava. Non so se l'avevamo detta questa cosa della, che la partitura originale, la versione originale, nell'organico aveva la glassarmonica, lo strumento fatto di quei, non secondo sono bicchieri, me non ma sarà sembrano detto. Bicchieri. Perché in questa scena famosa, appunto, che è la scena poi più famosa dell'opera, Donizetti prevedeva nell'autografo, nell'opera originale, un uso straordinario della glassarmonica o armonica a bicchieri. Lui, appunto, Donizetti stesso redasse l'intera parte integrando abilmente il suo timbro particolare con l'orchestra sinfonica. Tuttavia, una serie di circostanze, che non staremo a raccontare, lo costrinsero a rinunciare a questa soluzione, perché il primo che la doveva suonare se ne andò dal teatro, insomma, alla fine la levarono e lui riscrisse la partitura sostituendo la glassarmonica con il flauto. Io però ho avuto la fortuna di vedere la versione originale con la glassarmonica, perché a New York al Met facevano proprio quella con la glassarmonica. Anche perché quando ti ricapita di poter suonare la glassarmonica, cioè, infatti ce la metti la glassarmonica, è un però, po' come la celesta, perché, esatto infatti, perché la glassarmonica in realtà più che il flauto rende questi passaggi, no, tra gli stati della realtà molto più significativi, cioè, molto allucinatoria, riesce a rendere anche tutto quello che sentite classico nei film, no, e passa a quelli in cui si sente il momento dello spirito o i ricordi, quella è proprio quel suono della glassarmonica, se proprio, no, strusciate il dito sul bicchiere viene quel suono, che sì, può essere sostituito da altri strumenti, il flauto, appunto, strumenti ad aria, però non rendono esattamente quella, no, quella strana, cioè è proprio strano il suono, è surreale. È surreale, brava, è surreale, e effettivamente insomma, almeno nella versione che ho visto io, la glassarmonica faceva la sua porca figura, diciamolo. Io non mi ricordo se nella versione che ci stiamo per ascoltare c'è la glassarmonica o i flautini. Non so, perché di solito c'è quella con i flauti, cioè. Senti, poi è molto probabile, in ogni caso c'è la Callas, e quindi potrebbe esserci sotto anche una zampogna. E ci stava bene. C'è da dire anche che c'è l'arpa, perché un'arpa introduce l'ingresso di Lucia, no? Spesso nell'opera ritorna, e quindi anche l'uso dell'arpa, no? Che è un altro strumento abbastanza così più, insomma, più positivo, però comunque strano, etereo. Quindi ecco, c'è una serie di strumenti in tutta l'opera che danno l'arpa, no, cioè deve dare questo ingresso un po' virginale, così positivo, della figura di Lucia, che all'inizio, no, così angelica, un po' ingenua, e si trasforma poi, appunto, come dicevano Mari, un po' anche nella violenza proprio necessaria a difendersi, perché diceva, da che? Insomma, da tutto, nel senso, da uno che gliela stava fatto sposare per forza. Comunque, se non lo so, chiamiamolo come vuole, ma... Quindi io direi di ascoltarci questa magnifica aria, che dura un po' perché sono circa 10 minuti, veramente alzate a palla il vostro stereo, il vostro dispositivo dal quale state ascoltandoci, perché questa penso sia una delle cose più belle che si possano ascoltare. Thank you. Mamma mia, mamma E vabbè, mia. E vabbè, è quando uno sa fare, lasciatelo fare. Non è che gli vuoi dire. E questa era appunto, come dicevamo, la famosa aria della pazzia che conclude poi lo spazio di Lucia nell'opera, perché alla fine di questa aria lei muore, e così proprio di strazio. E, anche perché più di questo che doveva dire nella vita è così, cioè, poi anche morì, poi non è cioè, appunto direi contento no, basta e, sì, è rimasta appunto celeberrima, come dicevamo, e si capisce perché. Qui accompagna, qui abbiamo la versione col flauto e non con la celesta, sì. Oh, sì, ora lo dico, con la glassa armonica, e, che però insomma fa la sua porca figura anche la versione col flauto, non è che ci fa sì, tra l'altro però... era veramente impressionante l'abilità della, tra le mille della Callas di imitare veramente alla perfezione il suono del flauto. Sarei davvero curiosa di sentire chissà, cioè, come sarebbe venuto con la glassa armonica, cioè con era lei bello. Che cercava di imitare la, cioè, ma con la voce perché della... la glassa armonica doppiava in alcuni momenti la voce di lei, no? E quindi si alterava, era proprio straniante, cioè l'effetto era più straniante di questo, perché il flauto è un po' più conciliatorio con me, cioè anche se c'ha gli alti, però è un suono più dolce, cioè la glassa armonica è un suono proprio strano. E infatti no, ma io mi immagino il suono della voce della Callas, che già è ambiguo tantissimo, sì. Che in più imita un suono altrettanto ambiguo come la glassa armonica, mi immagino sarebbe stata una cosa incredibile. Sì, poi dal vivo era veramente... Infatti leggevo appunto nella scena della pazzia, che è un po' l'emblema dei personaggi, è proprio il punto in cui Donizetti proprio fa sfogo di questa sua caratteristica, di questi... a cui la chiamano la pietas doninzettiana, insomma. Non è più appunto l'arpa che era all'inizio, accompagnava, si sentiva anche nel primo ascolto che abbiamo fatto, accompagnava Lucia, ma entra appunto il flauto o la glassa armonica che doppiano appunto la voce di Lucia, a che la glassa armonica appunto che ha questo timbro quasi... così strano, e in questo modo il compositore porta alla massima esaltazione la psicologia di questo infelice personaggio, rendendo l'irrealtà sonora lo specchio dell'irrealtà del delirio. Quindi la glassa armonica svolgeva meglio questa funzione rispetto al flauto, perché appunto, come si diceva, è più irreale, il suono è più strano, più fuori così dai canoni. Beh, non credo si possa spiegare più di questo, cioè questa scena rimane veramente, cioè lei è proprio mattatrice in tutti i sensi, sì. Cioè in tutti i sensi veramente di questa straborda, scena, direi. E lei è protagonista, e anche appunto come si diceva a Microfoni Spenti, anche quando il coro maschile cerca di, a un certo punto rientra e cerca di sovrastarla, di confonderla, lei riesce comunque a uscirne al di sopra, riesce a spezzare e a uscire di nuovo, e questo è il suo personaggio, no? Nella fine tragica, però una fine decisa da lei, se non altro, rispetto a una vita incatenata ai doveri, incatenata a un matrimonio che non voleva, piuttosto la morte, veramente, piuttosto e la violenza, e poi la punizione e la morte. Questa è una delle mille versioni, dicevamo che l'opera ha subito molti cambiamenti, un po' per adattarsi appunto a chi la interpretava, e un po' perché poi Donizetti cambiò anche il testo originale di Cammarano, insomma, poi fu accusato di non aver rispettato troppo il testo di Sir Walter Scott, quindi nei secoli l'opera è cambiata abbastanza rispetto a quella che vediamo poi, insomma, oggi. Ci sono tantissime citazioni, poi dopo lo diremo, sia direttamente nella letteratura, proprio viene citata spesso l'opera, e citazioni poi nei film e nei libri in maniera indiretta, ma lo diremo poi. Quel che rimane appunto è l'ultima bellissima scena che segue questa, e che è il nostro ultimo ascolto, se non mi sbaglio. Sì. Perché alla scena della pazzia segue la fine, o dopo la protagonista, la fine del protagonista. Perché chiaramente non è che si può sopravvivere, cioè non è che poi uno se ne fa una ragione e si rifà una vita, no. Lei muore e... Ed Edgardo chiaramente non è presente al momento, per cui non lo sa fondamentalmente, inizialmente, lo scopre dopo, scopre appunto tutto il casino, scopre che lei appunto è morta di dolore, scopre che le erano state raccontate appunto le bugie per allontanarla da lui, quindi giunto all'alba tra le tombe dei Ravenswood, la sua dinastia, per battersi in duello con Enrico, che è il fratello di Lucia, Edgardo medita di farsi uccidere perché è talmente disperato, anche se ancora non ha saputo, però cerca la morte. D'improvviso è turbato dall'arrivo di una processione proveniente dal castello dei Lammermoor, che piange la morte di Lucia, è il corteo funebre di Lucia. La campana appunto annuncia la morte della ragazza. Edgardo, che non può vivere senza di lei, si trafigge con un pugnale sulle note di questa ultima celeberrima aria, Tu che a Dio spiegasti l'ali, che è composta di molte parti molto molto belle e che veramente, a cui almeno nella versione che ho visto io, il tenore rendeva veramente giustizia, era veramente, veramente bravo. Perché appunto anche questa è una scena straziante, ma non cade mai nel patetico, è sempre molto forte, è molto intensa, è veramente bellissima e rappresenta, come si diceva, un po' la consacrazione del ruolo del tenore moderno, di quello che poi noi insomma concepiremo sempre come tenore, nasce un po' qui. La scrittura vocale di Edgardo in generale nell'opera si divide sempre tra accenti intrepidi e drammatici e un lirismo molto intenso. Possiede appunto la vocalità del tenore, si chiama del tenore di grazia, quindi con la voce molto soave, struggente, penetrante e molto luminosa negli acuti, che dona questa dolcezza, no? Anche insieme a questo abbandono, questa... così un po' etereo, divenendo il tipo proprio del ritratto dell'eroe romantico maschile, cioè lui diverrà proprio il riferimento per l'eroe in generale, insomma, nelle opere che verranno dopo. Che comunque, ora io non vorrei dire, ma non ha fatto niente a lui. Edgardo non è che si è proprio ammazzato, cioè, di fatica, non ha fatto nulla. È più il fratello. Cioè, ma l'eroe. L'eroe, perché comunque... Vabbè, gli è toccato scappare, poi ritorna. No. Però effettivamente non è che c'ha grandissime... Cioè, voglio dire... Sì, il fratello si è sbattuto di più, però... Alla fine c'ha sempre provato. Il dolore, sì. Vabbè. È così. In generale, appunto, ci siamo considerati poco Enrico, che in realtà, come si diceva, c'è molto di più nell'opera rispetto a Edgardo, perché è fratello di Lucia, quindi è il coprotagonista, è l'antagonista in realtà. E come tutti i baritoni del melodramma romantico, rincarna proprio l'antagonista, un po' diabolico, no? E rappresenta proprio la mano malvagia, il braccio violetto della legge. Cioè, il braccio violento dell'opera. È un po' sì. E insieme, così, proprio un po'... Un po' giustificato delle esperienze della vita, cioè lui vuole fondamentalmente vuole rifare, no? Vuole riportare la sua famiglia alla ricchezza, allo splendore, però lo fa sulle spalle della sorella, quindi non è proprio questa gran giustificazione, però appunto no, c'ha queste caratteristiche di opportunismo, di cinico proprio fino alla morte, e sono riportate nel suo personaggio, nel suo canto. Gli altri personaggi non ce li siamo considerati molto, ma appunto Raimondo, che è rappresenta, no? il consigliere sacro, il prete, insomma, a seconda delle versioni poi. Però è un po' il confidente di Lucia, cerca sempre un po' di fare da paciere, ma in realtà insomma ci mette del suo anche lui. Magari non è come Enrico, non è proprio spietato apposta, però insomma comunque la vuole convincere a fare quello che il fratello vuole, quindi alla fine vuole mantenere l'equilibrio sociale, diciamocelo bene, non è che proprio... appunto Arturo si vede poco, ahimè fa subito una finaccia, il marito appunto, quello che poi sposa lei, la famosa cavatina Per poco fra le tenebre è rimasta famosa, allora noi non l'abbiamo ascoltata, però incarna un po' quello che si chiamava tenorino amoroso, insomma il personaggio minore, appunto si vede poco. E Alisa era la damigella di Lucia, e doppia un po' lei, la figura un po' matura appunto incarnata da questo mezzo soprano, E questi sono un po' i personaggi minori, diciamo. Questo momento, la morte poi anche di Edgardo conclude l'opera, e io direi intanto ascoltiamocela e torniamo poi per le conclusioni. Torniamo poi per le conclusioni e le citazioni. Va bene, allora sentitevi Tu che a Dio spiegasti l'ali, e noi ci ascoltiamo la versione del 1967, sempre intorno a quest'epoca più o meno gli ascolti che vi abbiamo proposto, e in questo caso il tenore in questione è Carlo Bergonzi, scusate se è poco. Stilali, o per l'alma innamorata, a chi rivolgi a me la fata, o te, o ascenda, o te, o ascenda il tuo fedele. Osseria dai mortali facci a noi si guerra e se divisi fu quel terra ne congiunga il nome Oh, vabbè, questa era, devo dire, la mia preferita. Scrosci, sì, Bell'alba innamorata, io proprio... Bell'alba innamorata, sì. Dicevamo le pronunce meravigliose. No, vabbè, lui c'aveva la sh un po', era un po'... Ma perché era un po' la vecchia questa, cioè quella che ho sentito io a New York era molto più... Sprint, cioè, vabbè, la facevano, New York, la facevano, la facevano tipo hardcore, molto più veloce, sembrava... Era tipo Bell'alba innamorata, cioè era proprio veloce, veloce. Oi, e qui il tenore è così basso che il basso era tipo bassissimo, cioè il sì, baritono, cioè, era tipo basso. Mamma mia, era tipo sottoterra, sembrava. Va bene, e questa appunto ultima drammatica scena, qui è il timbro del violoncello a cantare la melodia al posto di Edgardo nella ripresa della cabaletta, cioè è il violoncello che doppia qui la voce, che fa il tema. Questa cosa è bellissima. È molto bello, ma in tutta l'opera è così, cioè, io ho trovato questo testo su internet che faceva proprio, era interessante perché metteva dall'inizio alla fine dell'opera tutti gli strumenti rappresentativi di ogni personaggio, come vi dicevo prima all'inizio, no? Lucia c'ha l'arpa, poi la glassa armonica, lui appunto qui c'ha il violoncello, perché il violoncello appunto canta appunto questa melodia al posto di Edgardo e non è né troppo basso né troppo alto, quindi è piuttosto sulla voce di, perché non è alto alto come il violino, no? C'ha un timbro un po' più caldo e canta appunto doppia e sostituisce la voce al momento della caballetta, dando poi voce un po' alla speranza della consolazione ultraterrena, no? che proprio pervade la scena, perché lui proprio si uccide con la speranza, come se fosse invece di una fine un inizio, cioè lui si vuole ricongiungere a lei, l'unico modo per ricongiungersi a lei è nella morte, perché lei appunto è morta e quindi quasi, cioè lo strumento deve rappresentare, no? non deve essere mortifero, deve rappresentare un po' ancora la speranza dell'innamorato fedele fino alla morte, perché lui proprio fino alla morte, dentro la morte la segue e appunto si toglie la vita, e questo è veramente uno dei momenti più belli dell'opera, non a caso la conclusione, perché è veramente impressionante, cioè io sentirlo dal vivo è veramente, veramente bello. Leggevo che appunto nelle varie edizioni addirittura alcuni personaggi, alcune soprano, alcune cantanti famose, tipo la prima che lo fece, mi sembra fosse Fanny Persiani, lei era proprio la prima nell'835, addirittura pensava che siccome lei il protagonista è la prima donna e la scena della pazzia dovesse essere l'ultima, no? E si era convinta che quella era, perché dopo di lei non c'era nulla, quindi si pigliava gli applausi e andava avanti un'ora, tanto pensava che dopo grande. Quella, perché diceva vabbè, ma la protagonista sono io, la scena della pazzia fine, muoio io, finita, cioè giù il bandone. E invece, insomma, cioè, lei era convinta che la sua aria dovesse concludere l'opera, ma Donizetti, appunto, quindi e Dupré, che era il primo Edgardo, insistettero che la conclusione proprio preparata dell'opera fosse la scena della tomba affidata al tenore e non la scena della pazzia affidata a lei. Effettivamente, era non per... Cioè, è chiaro che l'equilibrio si chiude quando muore anche lui, se no moriva lei e lui doveva andare a finire. Cioè, era un po' strano. No, che va bene personaggio secondario, ma era proprio... Poraccio, c'è neanche vedere che fine così, fa. E questa si era convinta e quindi diceva no, questa deve essere l'ultima. E però, insomma, non è l'ultima, però è la più importante, insomma, la scena della pazzia poi alla fine. Quindi la simbologia strumentale della Lucia di Lammermoor è veramente importante, forse più che in altre opere, no? Proprio perché l'organico non è esagerato, cioè l'orchestra non c'ha un organico wagneriano con mille robe, cioè c'ha veramente abbastanza stretta all'osso, perché è piuttosto ogni cosa ha il suo perché, cioè sono veramente delle scelte timbriche interessanti, cioè l'opera inizia con le percussioni di timpani che scandiscono così questa marcia funebre all'inizio, proprio comincia già con una marcia funebre che poi si riprende alla fine, quindi c'è tutto un... No? Una drammaturgia anticipata degli eventi, le prime frasi sono appunto melodiche affidate ai corni di guerra, agli strumenti a fiato, piano piano, no? Gli archi cominciano ad entrare dopo un po', poi c'è la scena appunto, spesso c'è l'arpa che introduce Lucia, addirittura, insomma, ecco, sarebbe lunga, però veramente la simbologia strumentale c'è un lavoro bello, importante che Donizetti fa, cominciando quasi, la butto lì, addirittura a legare alcuni personaggi agli strumenti, quasi, non te la vorrei. Non vorrei così teorie sul leitmotiv wagneriano anticipato. Però io penso al jazz, figurati. Vabbè, perché cioè, poi anche quello avanti. Viene da quello. Quindi ecco, La Lucia di Lammermoor. Beh, fondamentalmente la citazione principale e più famosa è Madame Bovary, perché nella seconda parte del romanzo di Flaubert, il capitolo 15, è pressoché dedicato interamente ad una rappresentazione di Lucia di Lammermoor, cui Emma Bovary assiste a Rouen. Rouen è intanto una delle città nelle quali i biografi dello scrittore francese di Flaubert hanno supposto che lui potesse aver visto effettivamente una rappresentazione dell'opera, forse nel 1840, ma che effettivamente poi l'abbia visto o no, di fatto la cita. E durante la rappresentazione l'attenzione di Emma Bovary viene meno proprio nel momento della scena della pazzia, un po' perché attirata dall'inattesa presenza di Léon, poi non so se l'avete letto, ma insomma... insomma, il personaggio di cui lei è invaghita, vuole come metafora del gusto della prima metà dell'Ottocento, che considerava questa scena meno suggestiva delle altre, pensa tu, la consideravano meno importante, un po' perché non c'ha proprio il ritorno, un po' non è come le altre che c'ha, no? Il ritornello riconoscibile è tutta un po' fluida, e quindi la gente che canticchiava di meno, che per sentire sempre il solito pezzo era meno pop, esatto. E ad un'attenta analisi, appunto, non può sfuggire il simbolismo che accomuna chiaramente il romanzo naturalista a quest'opera donizettiana, specialmente nella scena della pazzia, perché Emma Bovary è il simbolo del disagio, no? Che cova proprio nel seno della borghesia francese, riflettendo un'insoddisfazione tipica della seconda metà del XIX secolo. Così, in Lucia, la presenza dello strumento solista rappresenta la sovrapposizione diretta proprio tra realtà e pensiero in uno stato di deriva completa fisica e psicologica. Quindi la scena della pazzia non a caso è citata nel romanzo, sì, di Madame Bovary, scusate, e in generale comunque, come vi dicevo, nonostante che Lucia di Lammermoor sia ambientata nel XVI secolo, in realtà è un personaggio completamente ottocentesco, completamente moderno, no? Nella sua proprio incapacità di poter vivere una vita libera, ma no, si doveva, appunto, dovendosi sottomettere alle regole borghesi, così come Emma. Notevole è anche il fatto, appunto, che la personalità di entrambe sia riassumibile nella frase c'è sempre un desiderio che trascina ed una convenienza che trattiene. E direi che questo no, vale per Madame Bovary, e direi che vale proprio anche, soprattutto per Lucia di Lammermoor, chiaramente in maniera più violenta, più esposta in Lucia di Lammermoor, perché è ambientato in un'epoca più, tra virgolette, violenta, così fuori di metafora, no? Come il 1600, mentre poi no? il composto, l'educato mondo borghese dell'Ottocento soffocava poi violentemente nello stesso modo. Altre citazioni letterarie, ce ne sono tantissime, in Monteriano di Forster, che è lo scrittore di fondamentalmente da cui Ivory ha preso quasi tutti i suoi film, che io chiaramente mi sono accollata a tutti, e in anche questo Monteriano, penso di averlo letto solo io e Forster, la mamma di Forster, i personaggi assistono all'opera, vanno proprio, c'è un capitolo in cui loro vanno a vedere l'opera. L'opera di Donizetti è stata associata spesso anche a Anna Karenina di Tolstoi, in cui non viene citata direttamente, però vengono fatti dei riferimenti. Diciamo che l'autore la nomina espressamente nel capitolo quinto dell'Albert, un racconto del 1858, in cui fa dire al protagonista che anche nella musica nuova, per il tempo, quella di Donizetti era considerata nuova, per Tolstoi ci sono straordinarie bellezze, tra cui la Sonnambula di Bellini, il finale della Lucia e Chopin. In generale, insomma, è citata in tantissimi romanzi, questi erano i principali. Curiosità, nei film, non so se vi ricordate il Quinto Elemento di Besson, chiaramente c'è una scena, appunto, in cui l'aliena blu canta l'opera, e quella che canta è la parte della scena della pazzia, è proprio dall'inizio fino a Tassidi alquanto. Poi viene un po' devastato quella scena, sì, però è bellissima. Però sì, dopo entra la musica, altra musica sotto, però lei sta cantando quella all'inizio. Quindi, insomma, vabbè, citazioni sarebbero numerose ancora le cose da dire, ma tutto non si può non si può esporre, questo è quanto. Speriamo che, insomma, che vi sia piaciuto. Sì, questa soap opera finisce qui, però ve ne aspetteranno altre. Sì, perché poi con le soap opera è un po' così. All'inizio dice no, vabbè, ma l'opera, ma che, oddio, no. E invece poi quando va, sta passione, ci piglia gusto. Sappiate, una di Mozart ve la beccate, non facciamo i furbi, perché le nozze di Figaro sono dietro l'angolo. E non è che adesso ho fatto Donizetti e non faccio, cioè, che vorrei preferito. Eppure pure alla fine vi beccherete pure Wagner. Così, di soppiatto, sì. Bellicosi sì, siamo. Le forze oscure non smettono mai di tramare, per cui non state troppo sugli allori, non vi appoggiate troppo, perché al primo angolo gli allori crollano. Al primo angolo l'opera sbuca. Vi lasciamo con la nostra sigla di chiusura, che non vi facciamo sentire quasi mai, e questa volta ve la beccate invece. Sì, quindi alla prossima. Domenica prossima e a presto. Ciao. Il est une bête, tiri petit enfant, tiens la langue, c'est une pyromète. La peste à sa maman, tiens la langue, petit enfant, c'est un triple plan, un petit potasson. C'est mon corps, c'est mon poisson, un petit potasson. Qu'est-ce que la crête? C'est découper les oiseaux, tiens la le petit enfant, c'est tout.